Si riconosce in questo disastro descritto dai media? Sì, purtroppo non mi ci riconosco pienamente, questa è la realtà. Credo che sia la realtà non da oggi, però. Ok, uso, e questo è un primo punto, uso e abuso del pronto soccorso e tagli, sono a suo avviso i due fattori chiave di questa enorme difficoltà? Aggiungerei una cosa che ha fatto precipitare, o perlomeno ha fatto estendere la criticità in zone del paese in cui questa non era presente fino a poco, la crisi economica, quindi il diffondersi della povertà. Certo. Tagli, quindi non solo diretti quelli che immaginavo, ma diffusione della povertà e quindi maggiore ricorso. Già, perché al pronto soccorso cosa succede quando si arriva? Non si paga fondamentalmente. Non si paga, o si paga in casi abbastanza rari. Il ticket viene pagato nel Lazio nel 5% dei casi, quindi una percentuale abbastanza bassa. Ho letto di prestazioni. Quindi non si paga fondamentalmente o si paga pochissimo, ho letto nei blog, molti suoi colleghi dicono sostanzialmente che tra l'altro per ragioni o di complicazione o appunto delle persone che vi trovate ad aiutare, insomma la tendenza quella è di non fare pagare. Ma guardi, molto spesso l'accesso al pronto soccorso per evitare il costo di un ticket è una forma di difesa in persone che le guardi in faccia, le vedi, sono persone che... il pagamento di un ticket oggi per una batteria di esami di laboratorio significativa si va tranquillamente sopra i 100 euro, quindi si parla di cifre di un certo valore, quindi è una forma che alcune persone utilizzano impropriamente sicuramente come autodifesa. Ora, la cosa che però a me premeva far notare, perché temo che ci sia una sottolineatura, una limitazione dell'interpretazione del problema, vedete, le leggo una frase, da tempo ci hanno detto che bisogna ridurre i ricoveri, noi non abbiamo più letti in cui mettere i pazienti, le persone aspettano più giorni per mancarsi un posto letto, questa è una lettera di tutti gli ospedali di Torino al governatore della regione Piemonte, quindi attenzione, non vorrei che abbiamo scoperto in ritardo un fenomeno che va avanti da almeno 6-7 anni, in alcune zone della città di Roma ad esempio dove ci sono pochi ospedali e tanta gente, purtroppo il mio ospedale è uno di questi, ma che si sta giorno per giorno estendendo.